finisce la lezione. Sei solo chiacchiere distintivo, solo chiacchiere distintivo. Sei solo chiacchiere distintivo. 22 e 43 minuti primi, finalmente gli studi di Onda Rossa di nuovo carichi di umanità varia. E come annunciato nelle precedenti puntate, questa sera, come più o meno da 6 anni in questo periodo dell'anno, andremo a presentare un festival che è cresciuto proprio in questi anni. Una 3 giorni che si ripete e di cui appunto fra gli organizzatori protagonisti stasera parleremo diffusamente. Allora, 22 e 44 minuti primi, dicevamo gli 87,9 della modulazione di frequenza della banda romana e laziale. Radio Onda Rossa che da 41 anni vive grazie al contributo di tutte e tutte, cioè una radio autogestita. Che vive del lavoro condiviso di tanti e tante compagne che si sono avvicendate qui alla radio in questi 41 anni. Ma vive anche del contributo di tutte e tutti gli ascoltatori che partecipano, danno informazioni, comunicano con e attraverso la radio e danno anche il sostegno economico della radio. Come alla radio, come si fa a sostenere questa emittente che ha comunque sempre bisogno di questo sostegno, in quanto non vi sono altre fonti di sostentamento per la radio se non le sue iniziative e il vostro supporto. Basta andare sul sito www.ondarossa.info, ci sta scritto sottoscrivi, andate a leggere quella paginetta, ci stanno un sacco di indicazioni su come poter sostenere Radio Onda Rossa. E noi ci piace perché lo sappiamo e lo facciamo da tanti e tanti anni. 618040101, dire il numero del conto corrente postale 618040101, da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001. Via dei Volsci 56 0085, Roma San Lollo. Vediamo anche altri contatti importanti della radio. E cioè per le vostre comunicazioni ondarossa@ondarossa.info. La casella di posta elettronica della radio per le vostre comunicazioni. E infine quello che è il recapito dello spazio che state ascoltando, 25 o'clock@ondarossa.info, con 25 scritto a numero. E infine, illuminate di rosso la redazione della radio più rossa che c'è, e cioè lo 06491750, il recapito telefonico della radio. We'll be right back. Allora, 22 e 49 minuti primi, ci siamo in onda, siamo in diretta, ci stanno delle vecchie conoscenze, delle conoscenze più nuove della radio, e ci stanno soprattutto Secchetto e Ivan, provenienti da quel della costa e delle paludi lidensi. Vogliamo intanto provare a vedere se i microfoni stanno in onda, proviamo un po' a parlare. Ciao a tutti e a tutte. Ci stiamo. Buonasera, ciao a tutti e tutti. Ha funzionato tutto alla prima botta, non è da Radio Andarò, non ci riconosciamo più. È magia della palude questa. Ok, allora, quindi siamo alla sesta edizione, cioè com'è avere sei anni di un'iniziativa che cresce sempre e che appunto abbiamo presentato. Andiamo subito con i piedi nel piatto, poi magari, oppure volete che magari una domanda prima per rompere il ghiaccio, come si dice? No, subito bestia, dai, così. Sì. Quindi Ostia Palusa 2018, che cosa succede da sei anni? Questo esperimento, questa iniziativa, che però, come recita il sito, sempre comunque con una, io credo, insomma, mi direte voi, con una sottile vena ironica che percorre un po' sempre il vostro approccio, diciamo, con il presente, con il reale. Siamo arrivati alla sesta edizione, stanchi, contenti, entusiasti, qual è il sentimento che prevale? Diciamo un po' tutti quelli che hai detto tu insieme, più o meno, quindi sicuramente contenti, sicuramente pure entusiasti, un pizzichino stanchi perché il lavoro è sempre tanto, e poi sinceramente la cosa interessante di riproporre per sei anni un festival come Ostia Palusa è comunque una sfida che negli anni diventa paradossalmente più intrigante, perché ok, il primo anno lo fai e c'è la carica e l'energia di una cosa che è appena nata, no? E il secondo tendi a migliorare il più possibile tutto quello che hai fatto l'anno precedente e ti riesce, perché comunque anche facile, perché ne ha fatta una prima. Ne ha fatta una, cioè ok, proviamo a fare alzare l'asticella. Un po' d'allenamento, insomma, si arriva. Eh sì, il terzo anno migliore, via via, insomma, finché arrivi al sesto anno che pensi, oddio, e mo? Cioè, nel senso, mo qual è il gioco? Come si va avanti, insomma, a portare avanti quelle che sono le idee fondanti del festival, quindi l'autoproduzione, l'autogestione. Il diciamo cercare di stare il più possibile al di fuori del mercato e quindi di proporre gruppo, musica, ma non solo musica, che abbia un significato forte. E alla fine la sfida è quella, insomma, ed è stata pure quest'anno, penso, accettata da noi con tutti gli altri compagni e compagne di Ostia, ma non solo, Fiumicino e tutti i ragazzi dei Castelli. Chi è un po' il collettivo che, come vogliamo fare un pochino la storia, visto che state qui in diretta, insomma, innanzitutto uno dei festival più interessanti da tutti, proprio dal punto di vista della proposta, che ci stanno a Roma, un appuntamento penso fisso, importante, eccetera, che ha in qualche maniera ha fatto pure scuola, insomma, perché poi all'inizio non erano tantissime le rassegne di gruppi estive, erano più roba, che ne so, da Arci, che venivano fatte magari, che ne so, Ulsort in Sabina, queste robe così. Invece appunto decidere di fare una rassegna una tre giorni musicale con le caratteristiche che dicevate, appunto fare un po' di storia, cioè come è nato, come si è evoluto questo collettivo, se si sono aggiunti delle soggettività nel percorso, insomma, lungo di questi sei anni, e a che punto siamo arrivati, insomma. Sì, sicuramente diciamo che tutto il collettivo che porta avanti Ostia Palusa è veramente una cricca di soggetti svariegati e provenienti eterogenei. La parola soggetto non è la scelta a caso. Cioè, diciamo che, insomma, forse anche quello è un punto di forza, no? Il fatto di fare le cose insieme a persone che non necessariamente sono tutte perfettamente inquadrate come fosse un partito. Cioè, non è mai stato quello l'obiettivo né di ZK e tantomeno di Ostia Palusa. Quindi, diciamo, la differenza è un pochino come un momento di ricchezza. E nasce ovviamente dal territorio, quello è la base, nel senso che Ostia, che sta questa è un po' città, un po' paese, un po' capocciate, no? Come diciamo ultimamente. Cronache. No, ma vabbè, cioè, poi no, so, dico, vabbè. No, per fare facile ironia, insomma, no, però, no. Ecco, diciamo, un territorio particolare che non è né città né paese. E da quello, insomma, il legame poi con forse le situazioni periferia più vicine. Sarebbe ma alla fine è periferia perché è periferia di Roma, ma non è Corviale, non è Torbella. C'è anche la periferia di Ostia. Esatto, insomma, cioè, abbiamo, cioè... È Roma che è la periferia di Ostia. Eh sì, insomma, alla fine. Alla fine sì, alla fine è quello, insomma, un pochino a partire dal territorio e dai posti più vicini a noi. Quindi il legame primario ovviamente con i ragazzi di Fiumicino, del Bilancione, con i ragazzi dell'Ateneo Squat, che comunque sono diciamo i squat, i posti occupati, i nostri vicini, insomma, quindi i cugini, i fratelli e compagni e compagne che da sempre con i quali da sempre abbiamo fatto cose insieme. E poi piano piano questa alleanza un po' trasversale, insolita, con i castelli romani, per cui Radio Default, che ormai da parecchi anni è entrato a pieno titolo, insomma, in questa cerchia di organizzazione che di è Ostia Palustre. una bella comitiva, insomma, diciamo. Okay. Senti, vabbè, già abbiamo messo comunque altre cose appunto sul piatto, anche involontariamente. Prima di parlare più segnatamente diciamo della edizione di quest'anno, non so se avevi già da proporre qualcosa così per entrare anche nelle atmosfere sonore. Io tra l'altro sollecito il nostro inviato nonché redattore dal Lido, che conosce questioni, esperto di questioni litensi, e invece l'esperto di vita mondana romana. No, fa dei segni di diniego. No, come vogliamo entrare nel non per dare, perché appunto poi se no rischiamo di fare torto, però come inizieresti in questa edizione 2016, cosa manderesti come traccia esemplare, come gruppo che è giusto mandare come prima traccia per entrare proprio nell'argomento a pie pari? Guarda, non mi fai una domanda in cui giuro non m'ero preparato prima, quindi, però la so. Okay. E più o meno è il primo gruppo che quest'anno abbiamo chiamato, che sono gli Holy Pieces, perché mi capitò, insomma, di aprire un concerto degli Zoo al Sottoscala a Latina, e sì, ci sono piaciuti subito tanto, e diciamo quel misto di un po' di follia, sì, ma sì, di tecnica, cioè nel senso di bravura e di stravaganza anche musicale, sì, certo, esatto, certo. Che non è necessariamente, non fa parte, sì, non fa parte, no, di quei gruppi che più o meno poi siamo abituati a sentire, sempre che può essere le scene precostruite, esatto, il punk, esatto, piuttosto che altre cose. Invece Holy Pieces sono un duo che li attraversa tutti, che passa proprio, sì, come una catapulta dentro tutti quelli che sono poi tutti gli altri gruppi di Ostia Palustre. Loro sono stati i primissimi a cui abbiamo scritto, più o meno a febbraio, questo lo diciamo per tutti i gruppi che ci scrivano a maggio per voler fare parte del festival. Noi a febbraio già abbiamo chiuso la scaletta, quindi sappiatelo, e il prossimo anno contattateci prima. Allora, ritorniamo in diretta 23.02. Mi avete fatto ritornare in diretta a me, ce ne ricorderemo. Allora, dicevamo, edizione quindi 2016. Siamo arrivati. Quanti gruppi, quanti giorni? Sì, 2016, 2018. No, adesso mi parlate dell'edizione 2016. Dai, a memoria. Veramente a piacere. No, edizione 2018, sì, abbiamo un po' di... Non so come si chiama la malattia, quella che non hai ben preciso. Senilità, ci dicono, sì, il fantasma lancia le sue frecciate, probabilmente però ha ragione. Mezza piotta si avvicina. Allora sì, edizione 2018, come è fatta? Cioè, facciamo un po' una pianta dell'edizione 2018, uno schemino. Ok, l'edizione 2018 in larga parte ricalca quella che era l'organizzazione delle edizioni precedenti, quindi si basa su 3 giorni, di cui i primi 2 giorni sono inzeppati dei concerti e dedicati in massima parte alla musica, e poi ci avremo quest'anno un terzo giorno nel quale faremo le si terranno delle presentazioni di alcuni progetti che non sono prettamente musicali, ma che comunque avevano comunque riscosso parecchio interesse da parte di tutti e erano parecchio interessanti. Cioè Territorio Narrante, che è un progetto specificatamente ostiense, sono dei ragazzi di Ostia che si occupano di fare un lavoro sulla narrazione del territorio, delle storie che sono visceralmente legate al territorio. L'anno scorso avevano presentato, sempre a Ostia Palusa, avevano presentato il loro libro che non so come si chiamava? Ostia. Ostia, racconto di una periferia, mi sembra. Ed era un volume nel quale venivano raccolti tutta una serie di piccoli racconti che venivano narrati proprio da persone, collettivi, entità, ectoplasmi, ostiensi, di vario tipo. Fate vaghi, ci stavate pure voi. State a fare vaghi. Sotto forma di ectoplasmi, no, infatti io quello mi riferivo a quello. Grazie. E quindi niente, era un lavoro molto bello e comunque riusciva. Mi è piaciuto, insomma, e si doveva ripetere. Si doveva ripetere, nel senso che loro comunque sono ancora attivi e stanno a fare altre cose che sono comunque interessanti. Quest'anno presenteranno un lavoro sui Riders da Roma Lido. E quindi ci sarà tutta una. Ma l'altra hai detto era comunque l'elemento scatenante era un libro che era uscito. Sì, invece quest'anno la proposta, diciamo, artistica, documentale, qual è? Sempre un testo, uno scritto, un film, dei filmati, che cosa? È sempre un lavoro editoriale che fanno loro. Sempre basato su vicende del territorio, perché poi alla fine quella che è un po' la loro vocazione è quella di essere narratori del territorio, per cercare di dare una struttura narrativa che possa comunicare poi quelle che sono specificità di Ostia, del territorio, che è un territorio un po' particolare. Il problema appunto che se non si è in grado di narrarsi da soli, qualcuno te la racconta lui, esatto. E di solito te la racconta non proprio, certo. Esatta. E poi, cioè, la narrazione è sempre un patrimonio delle storie, delle cose che di tutti, e quindi va coltivato e va conservato nella maniera migliore possibile. Secondo me loro fanno un buon lavoro da quel punto di vista e comunque per noi è un piacere che possano, anche perché poi sono persone che conosciamo, sono amici, quindi per noi è un piacere dargli lo spazio per poter presentare questo lavoro. E poi posso aggiungere che ci mancano i treni, dove ormai purtroppo non so più, non so più dipinti, ma un po' perché forse comunque ci stanno più i Rider di una volta. No, però signora forse mia. però forse anche i treni come sono fatti oggi forse non è esatto, c'hanno delle... diciamo che c'è la politica del decoro, non so, esatto, che abbiamo un po' appiattisce pure un pochino quella che era una forma, cioè è tuttora una forma di espressione come tante altre, anche quella è vittima, diciamo, di questo momento, insomma. Sì, certamente. Poi ci avremo Cannibali e Re, Cannibali ha reso. Siamo partiti dalla domenica comunque, questo è fantastico. Ma lui ha liquidato, ha detto ci saranno due giorni di musica massiccia, basta, passiamo alla parte. Diciamo che mi trovo a parlare. Questo è il suo schema. No, vabbè, è giusto, però, ognuno affronta come. Mi trovo a parlare di questa parte perché è quella che conosco meglio. Cercavo di far vago, però mi è del schema. Allora, Cannibali e Re sono una realtà abbastanza nuova, che vengono dalla zona umbra di Perugia e loro si occupano di fare divulgazione da un punto di vista storico. E pure loro so una cosa molto interessante, una cosa nuova che comunque ha un grosso seguito, comunque ci avevamo voglia anche noi di incontrarli e di scambiare con loro, di conoscersi, di capire, e quindi era un'ottima occasione questa di poter condividere uno spazio e di poter essere incontrati. Guarda, a proposito di Cannibali e Re, ne abbiamo parlato qua in radio, mi ricordo l'avevo fatto io proprio quando si presentarono a Ottava Zona a Villa Cordiani, era il 25 maggio, quindi da paura che c'è questo collegamento. Sì, dai. sì, è stata una cosa figa. Poi ci avremo come terza presentazione, ci avremo Ex Gym, Mattone su Mattone, che è un documentario che è stato realizzato dai fratelli Frenguelli, Ivan e Andrea. Pure loro sono della zona di Perugia, dello stesso territorio dei Cannibali e Re, e loro è un documentario che hanno realizzato su Ex Gym, che era uno spazio occupato storico di Perugia, e quindi attraverso interviste, attraverso il racconto di quella che fu la storia di questa esperienza, hanno realizzato questo documentario che promette insomma di essere parecchio interessante e col quale insomma siamo contenti di poter collaborare, di poterli avere da noi. Una cosa, così, anche nell'esperienza delle puntate precedenti, la domenica, alla fine appunto ci stanno questi due giorni che abbiamo liquidato prima, però questi sono due giorni in cui viene la gente che tende, eccetera, eccetera, concerti, a cosa si fa tardi, si embriaca, tutto quanto, tutto a posto. E la domenica poi è il chill out, no? La parte in cui poi. Che tipo di attenzione c'è? Cioè i soggetti, le persone che vengono a ascoltare i concerti, la musica, poi sono gli stessi che vengono la domenica, cambia il tipo di fauna umana, cosa avete potuto osservare insomma in base a... Sì e no, nel senso che poi alla fine un po' sono gli stessi, e poi ci sono anche persone che magari vengono proprio per seguire questo tipo di iniziative perché magari gli interessano di più. Comunque in larga misura sono le stesse persone che ci stanno gli altri giorni, perché comunque Ostiapalusa è un festival di tre giorni, la gente sta lì con le tende, alla fine si crea tutta un'atmosfera che va al di là dei concerti, delle iniziative specifiche, è proprio una situazione di grande convivialità che poi si passa insieme tre giorni. L'elemento di più grande soddisfazione in realtà quello, perché sennò altrimenti si viene riventi come quelli, cioè è un po' come noi in radio, no? Quelli che fanno le trasmissioni musicali. È una cosa che vabbè, c'è un'annosa polemica e diatriba, perché ma che vuol dire trasmissioni musicali? Cioè, no, ci sta. Un po' questo qui mi premeva. Bisogna pure un po' rompere queste separazioni, questi muri che dividono la trasmissione musicale dalla trasmissione magari d'approfondimento d'altro tipo. Anche i concerti musicali punk o quello che è, dalle altre forme d'arte, di espressione, di comunicazione. Anche all'interno stesso della musica noi abbiamo sempre cercato di essere molto trasversali e di dare spazio a tante cose che ci piacevano, anche molto diverse fra loro. Nel senso, poi alla fine le scene secondo noi sono una cosa riduttiva che te finisce per limitarti, per portarti a vedere sempre le stesse cose, a conoscere sempre le stesse cose, quando invece insomma, come diceva pure prima David, la diversità è ricchezza, quindi cioè più cose diverse, più diverse situazioni si riescono a fare, pure scontrare fra di loro, a creare pure situazioni che a volte sono un po' surreali, perché però è pure figo per quello e alla fine ci guadagnano tutti. È vero, diciamo che non ci pesa per qualche punk addormentato mentre si parla di un libro, insomma. No, anzi. Anzi. È giusto che sia così. Vogliamo fare un altro brecchetto, così dopo passiamo alla parte invece della due giorni, la descrizione delle varie band. Cosa mandiamo adesso? Diteci voi. Ma io andrei un po' a gamba tesa. Non c'ho tutto, perché alcune cose non si riesce a trovarle manco su Bandcamp. Questo ce l'hai, secondo me. Tanto, intanto ridici Floyd. Ridici intanto i giorni. Allora, Ostiapalusa è dal 29 giugno al 1 luglio, quindi venerdì, sabato e domenica, fine a cavallo tra i due mesi, a ZK Squat Ostia. Via Paminonda 666. Esattamente. Il numero della best. Il gruppo che volevo proporvi, insomma, è uno dei gruppi che secondo me è veramente tra i più interessanti della scena underground romana. Perché sono veramente, veramente fighi. Tra l'altro sono da parecchio tempo. E sono i Juggernaut, che forti, a mio parere sono veramente una perla, una delle perle, diciamo, di questa tre giorni. Tra l'altro delle persone veramente carine che amiamo, è vero, spesso pure ospitare da questa. È importante anche quello. Guarda, esatto, sta cosa per noi veramente, ogni volta che abbiamo chiamato un gruppo e che abbiamo trovato in quel gruppo una carineria umana, insomma, è stato determinante, no? Perché poi può essere bravo e può essere anche magari, che ne so, che, diciamo, che i tuoi contenuti sono perfettamente affini a quello che pensi, eccetera, ma se non c'è quel grado d'umanità, alla fine si perde tutto, no? Cioè, dobbiamo riportare un attimino a questo. C'è anche il burbero, non è che pure, per carità, non è, però non è. Appunto, poi anche cioè quello che devi macchietto deve fare uno stronzo, detto assolutamente, però poi magari invece conoscendo, però sai com'è, capisci che dietro c'è una maschera, invece c'è una grande umanità, stile, poi esatto. Porta musica solo per, cioè, se perde quello che c'è sotto, il messaggio. Anche perché una delle idee, diciamo, di Ostiapalusa è proprio quella, diciamo, di chiedere una volta tanto ai gruppi di fare un passo verso il pubblico, no? Per cui si chiede comunque di venire a suonare fondamentalmente gratis, o comunque per il rimborso delle sole spese di viaggio. Non c'è. È quello che fa anche la radio da una vita, insomma, più o meno. Ovviamente, no, infatti, quindi per cui se tu accetti, diciamo, questo tipo di visione, per cui tu ti stai dando tu qualcosa alla situazione, non è la situazione che ti dà necessariamente te, insomma, vuol dire che c'è un momento di comunicazione forte, no? Pure bello. Va bene, andiamo a ascoltare e vi faremo suonare pure per la radio. Fantasma, prendi nota. Allora, questo è Ball Excelsior, che è una roba di un paio d'annetti fa, forse qualcosina di più, direi. Vai. Verranno tutti. Tutti. Ma forse lui non verrà. Allora eccoci dopo Juggernaut, come cazzo sta roba si dice? Vabbè, insomma, avete capito, ne parlavamo poco fa. Abbiamo un altro compagno in diretta di ZK dall'altra parte del telefono. Lo saluto, ciao, buonasera. Buonasera. Ci senti? A tutti e tutte. Ciao, sì, buonasera. Sì. Allora, dici un po', tu che ruolo hai in quest'Ostia Palusa? No, nessuno. Nessuno? Nessuno. Assolutamente. Quindi niente. No, io guarda. Ciao. No, la cosa che buonasera. No, la cosa che mandava di dire, il contributo che volevo dare alla discussione era un po' insomma andare anche oltre, insomma, al diciamo al piano musicale, che è sicuramente il protagonista indiscusso di questo festival. Però ecco, anche tutto il contorno, le attività che ci sono durante la 3 giorni a ZK, che sicuramente non sono assolutamente da sottovalutare. Per esempio sarà allestita un'area di distribuzione di materiale autoprodotto, che fa sicuramente parte del progetto di ZK e non solo. E anche quindi un'area dedicata ai banchetti delle varie distro anarchiche o meno che verranno insomma a partecipare al festival, oppure l'area della serigrafia, in cui diciamo è allestita dal progetto della serigrafia pirata, che è insomma la serigrafia qua di Ostia, scusate, però è sempre attraversata dai più disparati progetti, a partire per esempio da Ostile, che è insomma la serigrafia di Centocelle, piuttosto che da altri compagni e compagne che per esempio vengono a partecipare al Crack, che è il festival che si tiene a Forte Prenestino la settimana precedente, e restano apposta per rimanere ad Ostia Palusa e magari partecipare dando un contributo con fumetti piuttosto che stampe, piuttosto che mostre, eccetera. Oppure l'area dei videogiochi, che sicuramente dopo ne approfondirete ancora di più, l'area nerd e poi ecco la cosa anche molto molto importante secondo me è il progetto Spazio Cantina, che è insomma il progetto, scusa per un attimo, ho flashato Spazio Camino. Spazio Camino, diciamo un po' Spazio Cantina, più o meno su questo. Dai, parliamo di Ostia. Esatto, e in cui che è un birrificio autogestito di ZK, in cui si produce la birra che insomma berrete tutti e tutte al festival, e il vino pure. Quindi l'autoproduzione diciamo che attraversa tantissimi spazi e i più variegati argomenti lì al festival, non solo la musica. Ecco, questo era un po' quello che volevo dire. Vedevo facce perplesse dei tuoi compagni qui in studio. Sì, perché magari avrebbero voluto dirlo loro, io ti vado un po'. No. Allora, ma ci eravamo dimenticati in verità, grazie. Fondamentale. Vabbè. Vabbè, dai, resti in ascolto allora. Sì, assolutamente, ascolto, dai, è forte, buon proseguimento. Grazie del preziosissimo contributo allora. Dai, ci vediamo a Ostia allora. Ostia Palusa. Bella, ciao. Ciao, compa, ciao, ciao. Ciao a tutti. Ciao, ciao. Allora, rieccoci. No, vabbè, ringraziamo il compagno che ci ascolta. E non so, come vogliamo procedere? Eh beh, oh, la trasmissione si fa insieme, si costruisce insieme, no? No. Facciamo un dibattito. Parliamo di astrofisica. No, no, parliamo di noi, dei nostri problemi. Vedo che state lì con il programma sotto sulla scrivania, tutte e due. Professional. No, allora diteci un po'. Passiamo anche al lato musicale, certo. Perché insomma c'ha la sua importanza. No, anzi, è l'asse, la spina dorsale. A me un strumento, allora no, allora 2 giorni normalmente si fa una divisione logica fra i 2 giorni, ma dato che Ostia Palusa invece ci ha abituato, come dicevamo prima, a la logica non è delegata, no, comunque delle logiche non proprio lineari, perché non è detto logic che debba essere sì esattamente una linea retta o comunque che unisca due punti. Comunque c'è nella scaletta, nella sequenza, credo che avete, c'è magari un pensiero torbido dietro, ma c'è, insomma, illustrateci qual è questo tipo di logica. Vabbè, sicuramente c'è una grossa divisione fra chi sta fuori e chi sta dentro. Nel senso che Ostia Palusa anche quest'anno si creano delle barriere, delle divisioni per poter. Allora, scusa, sbagliato programma. Dai, nel senso che pure quest'anno ci saranno due palchi, uno all'interno e uno all'esterno. In genere quello fuori è un pochino più morbido, diciamo così, o comunque dedicato ai progetti solisti o insomma meno rock, si può dire rock. Anche perché vi ascolta il quartiere in qualche maniera, chi sta fuori è ascoltato di più da chi passa. Sicuramente facciamo più bella figura. Sì. E dentro invece comunque c'è tutta una serie di gruppi un pochino più attrezzati da un punto di vista proprio del suono, no? Quindi per cui della pressione proprio dei decibel. Sì, esattamente. Anche perché come ogni anno, insomma, tra le altre cose a cui teniamo è che si senta tutto molto e molto bene, insomma, è uno degli obiettivi di Ostia Palusa, insomma, sturare un po' di orecchie. E quindi sì, questa è una prima cosa. Scusa, questa devo fare. Sappiamo pure che Secchetto fa miracoli da questo punto di vista, ci ha salvato già anche come radio in alcune occasioni in cui, vabbè, questa è una parentesi. È tutta fortuna. E niente, quindi sì, io magari rapidamente vi posso fare una carrellata di quello che è il programma, così ve lo segnate e vi ricordate un pochino chi suona quando, insomma, che può essere carino. E mettiamo pure che cosa fa, dai. Aggiungiamo una breve descrizione, sì. In cui tra l'altro hai dei valenti collaboratori che potranno dire da loro. Aiutatemi perché io non li conosco i gruppi che abbiamo invitato. Cioè non tutti. Sono estratti a sorte con un software specifico. In verità, beh, si apre tutto il festival un aperitivo, innanzitutto, tanto per cominciare. Come i mondiali che c'è sta rassegna stampa con Ostia Palusa, che è, diciamo, evento ben più importante dei mondiali. Ovviamente, anche se, insomma. Sì, si apre tutto con un aperitivo perché è un'occasione per presentare il vino che autoproduciamo a ZK, che anche quest'anno ormai sono parecchi anni, è il Rosso della Lingua. Così l'abbiamo chiamato, ed è, insomma, noi ogni anno andiamo in queste vigne zona Castelli Romani a tagliare da noi, a cogliere l'uva da noi, la portiamo giù a ZK e si inizia tutto il processo di vinificazione in quello che diceva prima il compagno in collegamento telefonico, insomma è uno degli aspetti paralleli al festival a cui teniamo molto. E non è facile fare il vino, non è facile. Come tutte le cose ci vuole tanto amore. Spero che ne avanzi qualche bottiglia perché vorremmo assaggiare. Così la dico come. Questo è un po' più difficile, però. Ci sarà. Anche quest'anno più o meno 300 litri. Ok. Conterete però di finire, insomma. Ovviamente. Faremo del nostro meglio. Cercheremo di farlo durare fino alla fine, più che altro. Si attraversa. Okay. Sì, niente, quindi si comincia con questa inaugurazione, presentazione del vino di quest'anno, di cui comunque onestamente siamo molto, molto orgogliosi, perché comunque è sempre bello autoprodurre quello che te bevi, insomma, che è un principio, visto che una delle cose principali che facciamo è bere. Diciamo, se poi lo fai da te, comunque lo fai in maniera autoprodotta, appunto con la giusta con la giusta attenzione, insomma, chiaramente assume tutto un valore, un significato particolare. E poi si comincia subito con i concerti, alle 9:30, anzi no? Con Caterpillar. Sì, con le performance. No? Va bene. Sì, Caterpillar. Parlaci un po' di questo progetto perché è abbastanza curioso, abbastanza particolare. Sì, innanzitutto Caterpillar ha delle radici molto lontane. Non so, forse i più anziani vecchi. Noi vecchietti. Si ricorderanno di un gruppo che girava per i centri sociali, che erano i Frangar Non Flectar. Che hanno suonato tante volte anche a Spazio Camino, Ostia, ma anche, insomma, in giro per Roma. E Caterpillar era il batterista di questo gruppo. E qui presenta però un progetto un po' particolare, accompagnato da un chitarrista, parla, dice cose, insomma, quindi fa un pochino uno spettacolo, declama. Sì, sono cose interessanti, sono cose bello curate. Assolutamente sì, cioè nel senso riprende un po' quella che può essere secondo me un po' la tradizione della commedia in piedi, insomma, no? della chiacchiera col pubblico. Però sì, non dice mai cose scontate. Musica, teatro, musica, questa roba così, insomma. Sì, però è molto la cosa che mi ha colpito molto quando. Sì, è molto interessante proprio. Insomma, non dice banalità, ecco, non è quella cosa un po'. Non c'è niente di scontato. Tra l'altro, tutto questo lo fa vestito da lottatore di wrestling messicano. Ok. Quindi, insomma, già questo ci dà una dimensione dell'idea. E lui suonerà al palco fuori verso, quindi si inizia realmente verso le 9:30 9:30 e saremo puntuali per la miseria. Sì, okay. Gli orari sono abbastanza puntuali perché poi con le scalette così serrate bisogna per forza delle cose cercare di essere precisi da quel punto di vista. Certo. Ne va pure del perché appunto, come dicevi prima, no? I gruppi vengono pure volentieri e si crea questa empatia, no? Giustamente. Però trovare pure un'organizzazione, certo, benché appunto nasca dall'autoproduzione, da do it yourself, da comunque le mille difficoltà che attraversano questo modo di operare, perché poi se te manca una cosa non è che la puoi andare a comprare, perché magari non c'hai semplicemente i soldi, no? E quindi ti devi attrezzare. Certo, anche per rispetto di chi immagina centinaia di chilometri per venire, certo, di chi sta, certo, in tour, di chi comunque. Per insomma, cui se devi andare a suonare 2 di notte, insomma, è giusto. Devi essere preparato perlomeno. Perché se sono le 3 diventa un po' un problema. Questo era il concetto a cui volevo arrivare. Sì, sì, sì. Noi ci facciamo parecchio attenzione a questa cosa. Cerchiamo sempre di essere super precisi per poter far modo che poi alla fine l'esperienza sia bella sia per chi viene a seguire, sia per chi comunque si impegna e possa dar massimo nella migliore condizione possibile, perché comunque un gruppo che viene a suonare, se gli dai la possibilità di esprimersi nella migliore condizione dal punto di vista dell'organizzazione, dell'impianto, cioè alla fine anche per loro è una grande, cioè alla fine è bello pure quando il gruppo dopo che è suonato viene e ti dice è stata una bella esperienza, certo, mi sono divertito, cioè certo, per quello ci fa piacere. Dopo quindi Caterpillar? Dopo Caterpillar il primo concerto dentro suoneranno i Bon Ton, che sono un gruppo local, diciamo, quindi sono di Ostia Antica, quindi insomma vicini di casa, e sono un trio, chitarra, basso e batteria, forse 4. Ah, è vero, forse quest'anno a volte sorpresa, c'hanno sì, una formazione in 4, ma non so, si aggiunge so, forse una tastiera, non sì, so come verranno. E comunque sì, non lo so, è un power qualcosa, un power punk, zio, rock, pop. Beh, loro cantato in italiano. C'hanno una super ironia da parte loro, il fatto che comunque fanno uno show super divertente nel cui riescono a mescolare comunque una musica suonata bene, da paura, coinvolgente, pure con delle auto prese in giro, comunque. Posso fare una, però più ironici, un Faith No More però in versione ancora più cazzara, diciamo, sì, più sì, che è ancora più autoironica, che si, diciamo, che Faith No More cazzari dei Noantri, può essere una una buona definizione. Comunque sono molto fighi, sono fighissimi. E poi fuori c'è l'altro concerto fuori, che è un pochino un'altra chicca, diciamo, del festival, perché suonerà questo duo quasi inedito, che è Stefano Pilia e Massimo Pupillo, e che dire, insomma, sono due nomi, se vuoi dire, grossi, insomma. Due nomi grossi che, guarda caso, sperimentano. Sperimentano, cioè, non fanno nulla di che vi aspettereste che facessero. No, nulla, infatti, di scontato. Tra l'altro, cioè, è bellissimo che pure loro, diciamo, proprio perché non ci interessa poi alla fine né chiamare star né dare al gruppo, diciamo, quel tipo di significato, no? Per cui il gruppo grosso o il nome grosso, l'headliner o il grande musicista via dicendo, nel senso si va un pochino oltre quello, no? Sono stati felicissimi di essere stati invitati, tra l'altro Massimo, che è il bassista di Zoo, uno Stiense Doc anche lui, quindi in qualche modo c'è il legame con il territorio. Gioca in casa, insomma. Gioca in casa, sì. E poi sì, niente, insomma, Stefano Pelia, insomma, per chi è un po' appassionato di musica. Lui non è romano invece, no? Non è romano, è di Genova, e, sì, con base a Bologna, e viene da tantissime bellissime esperienze musicali, insomma, sono in massimo volume. In questo momento sta in tour con Rokia Traoré, che è un'artista maliana incredibile, più mille altri progetti, con Mike Watt per il Sogno del Marinaio, con insomma, decine e decine di progetti veramente di grande spessore musicale, e insieme portano questo nuovo duo, che il disco dovrebbe uscire tra l'altro a breve, che è un progetto molto sperimentale, sì, di suoni soprattutto, di suoni ed emozioni. E abbiamo finito con la prima giornata? No, no. Le ultime due cosette al volo sono i Gorilla. No, anche tranquillo. Sì, sì, abbiamo i Gorilla Pulp. Qui subito diamo un colpo dopo una sperimentazione di Massimo e Stefano fuori, cioè un heavy psych stoner, tufo rock. Direttamente dal viterbese, con i loro suoni hard rock molto molto molto anni 70, con un sound fighissimo. È un gruppo che veramente sono carini loro, sia come persone, ma soprattutto c'hanno una botta di suono, e quindi suono incredibile. Si può cominciare a scapocciare, insomma, attraverso lo stoner e la potenza. Sì, comincia la parte rock del festival. E poi si chiude il venerdì con l'ultimo gruppo, saranno 5 in totale, quindi i concerti venerdì, che sono i Guerra, con 3 R maiuscole. 3 R maiuscole, e sono un duo, sono umbri, vengono da Terni, sì. E è difficile definirli mat. Sì, sono molto mat loro. Fanno matcore, molto intricato, molto ricercato, musicisti sopraffini, comunque fanno una cosa molto figa. Il che ci mette in difficoltà, perché avete citato 6 band, se non sbaglio, una più figa dell'altra, per cui che cosa mandiamo di queste per interrompere, per dare due cose? Che cosa mangiamo? Beh, sicuramente i Gorilla Pulp, così ci diamo una. Gorilla Pulp e cinema, e poi. Ancheggiamo violentemente. Sì, e poi non e so. Poi decidiamo. Poi decidiamo. Allora, qua il professore ha lasciato i comandi al mixer. Noi ne approfittiamo. Allora, Gorilla Pulp, tra l'altro un... ci suona un personaggio di nostra conoscenza passato appunto negli studi... Oh, occhio. Tutto ok, professore? No, sono aumentato di statura nel... Ah, ok. Abbiamo notato. Allora, Angioletto... Chitarra dei Gorilla Pulp, una delle due. Insomma, attivo già in diverse formazioni della Tuscia. E Gorilla, cioè in più capelloni di Ostia Parusa, chi sono? Mi sa che sono i Gorilla Pulp. Sì. Beh sì, direi di sì. Juggernaut c'è qua, c'è... Pure il Juggernaut, non scherzo. C'è una certa componente capellifera. C'è Andrea che... Quindi i capelloni non vengono denigrati a Ostia Parusa. Discriminati. No, non facciamo differenze dei capelli. Che... Anche perché il festival è sponsorizzato dall'Istituto Elvetico Sandor. Si vede tra l'altro, no? No. Insomma, capita sempre quel periodo dell'anno in cui c'è Ostia Parusa e ti rendi conto che magari ti sei fatto le paranoie per un anno. Mi spiego. Anche più. Da una vita. Vabbè. No, appunto, durante l'anno magari si cerca di organizzare iniziative o di andare a concerti dove ti sembra... che girino sempre gli stessi gruppi, sempre gli stessi generi. E poi arriva Ostia Parusa che, cioè, un'esplosione detonante. Cacofonica. Come? Cacofonica. Insomma, fa piacere sentire pure, insomma, gruppi diversi che... indicano una certa ricerca durante tutto l'anno di preparazione, immagino, no? Oppure vi contattano direttamente i gruppi perché ormai siete famosi? No, per carità, c'è un lungo lavoro di selezione, o meglio, diciamo che c'è una lista che comincia più o meno il giorno dopo di Ostia Parusa e piano piano si arricchisce finché non viene il momento verso febbraio in cui... ci vediamo e si fa un po' d'ascolto e si comincia a ragionare su chi invitare, insomma. È un momento pure molto carino, insomma, perché comunque stai all'interno di un posto occupato e passi un po' una serata a bere birra e a sentire gruppi interessanti. Che poi, insomma, a ZK non sono nuove iniziative che comunque... sperimentano anche una e stimolano una socialità appunto tra chi viene da fuori, insomma, entra ZK, no? Questo è un aspetto, insomma, che le volte che sono venuto mi ha colpito, insomma, il fatto non è che sei fruitore di un concerto, quindi c'è un po' la situazione AB. No, però, sicuramente. Una situazione più condivisa, appunto, che dove è facile socializzare, no? Beh, l'idea è quella, sicuramente. Insomma, cercare di creare una situazione di socialità vera, che vada al di là del fatto che qualcuno sta su un palco a suonare, qualcuno sotto ad ascoltare o qualcuno dietro un bancone a dare la birra, insomma. Tra l'altro ricordo anche episodi, insomma, di... cioè, la cucina è più o meno libera. Cucina te? Questa... sì, come ogni anno, anche quest'anno allestiremo una cucina da campo che, insomma, può essere liberamente utilizzata da chi vuole, quindi, insomma, basta avere gli ingredienti giusti e il pasto è fatto. E fatelo da te. Allora, vogliamo continuare a sentire qualcos'altro dalla prima giornata o quello che volete, insomma. Non so, vogliamo sentire la prima giornata, possiamo sentire, non so. Ah, il bon ton. Il bon ton. Sì, sì, il diamo bon ton. Un tocco ostiense a, alla serata, insomma. Dai. Sì, sì. Dopo aver ascoltato il bon ton, mi riallaccio un po' alla domanda che aveva fatto prima il fantasma, proprio riguardo la selezione, la scelta, la, la roba, le cose che vi arrivano. Quello che notavo, anche preparando poi la scaletta delle varie band che poi fanno parte e animano Ostiapalusa, quello che appunto per le persone anziane come noi ci risulta così sempre abbastanza piacevolmente una novità è il fatto che ormai le produzioni, benché siano produzioni essenzialmente fatte in casa con mezzi poveri, con sicuramente una tecnologia diversa da quella di tanti anni fa, però ci si trova di fronte a un livello molto alto sia dal punto di vista dal punto di vista proprio dell'ideazione, dell'idea che ci sta dietro ai vari progetti, e sia dal punto di vista proprio della qualità tecnica, che comunque non ha nulla da invidiare, lo diciamo, a partire proprio per esempio dalla cura con cui fate il vostro sito di presentazione, che è un sito che ha delle caratteristiche, diciamo, che per essere un festival do it yourself è assolutamente l'opposto, cioè professionale, cioè una qualità estremamente non banale. Ecco, questa scelta penso sia anche qualcosa di difficile, perché vi trovate voi di fronte appunto a delle caratteristiche salienti e importanti per tutte quante le band, penso che questo sia già una prima difficoltà. E anche voi avete notato già dalla prima edizione un'ulteriore crescita, anche non solo da parte vostra, ma anche da parte dell'offerta di chi si offre per suonare. C'era il microfono abbassato, vai. È proprio uno dei punti un po', diciamo, chiave del festival, no? Il fatto che non necessariamente do it yourself significa abbassare la qualità, non necessariamente per alzare la qualità bisogna cedere a compromessi, e questo è un po' un principio che a cui ci teniamo, no? E che succede? Succede che ci sono tantissimi gruppi in Italia e all'estero in generale che continuano semplicemente a fare musica mossi da una passione vera, no? E spesso quando c'è quella passione, quella scintilla, spesso, per fortuna, quella passione e quella scintilla sono completamente slegate da un principio, diciamo, commerciale. Quanto investo, quanto ce li faccio dall'investimento, insomma, che può essere pure un ragionamento, voglio dire. Esatto, magari, nel senso, faccio un esempio. Non banalizzabile. No, insomma, assolutamente, non è... faccio un esempio, cioè, nel senso, c'è un gruppo che suona da 10 anni, ok? Come possono essere, non lo so, i Juggernaut, ok? Non cercano la fama, la gloria, i soldi o né tantomeno sono costretti a vendersi per avere un obiettivo e per essere appunto quello di avere successo, no? Per il successo. Cioè lo fanno semplicemente per la passione. Questo li mette in contatto con altra gente, amici, fratelli, collaboratori, persone X che conoscono nel loro percorso, che hanno lo stesso tipo di visione, che magari può essere un videomaker, no? O un collettivo di persone che fanno dei video, per esempio. Da questa fusione nasce un prodotto di qualità, perché è fatto con passione e con professionalità, che è completamente al di fuori di qualsiasi logica, appunto, vendibile, no? Per cui commerciale, insomma, per cui logorata, mangiata dal certo, e poi sistema. Ti fa entrare in un circolo vizioso senza fine, in realtà è proprio quello il problema, che comunque quando vieni artigliato dalle grinfie del mercato puoi essere pure una persona corretta dentro e precisa, ma poi probabilmente entri in quell'ambiente, in quella linea di, per cui magari ci vogliono anni per vanno sicuramente a detrimento di quello che può essere poi la qualità dell'opera artistica, cioè è sempre una cosa che comunque se apporta una cosa la apporta negativamente, quindi beh, qualsiasi tipo di logica di profitto commerciale. Ma anzi, se sopravvive pure una, cioè forse ci dovremmo spingere a essere pure più radicali, cioè non dovremmo di nonostante do it yourself, dovremmo dire che invece proprio perché do it yourself la qualità è senz'altro migliore di una cosa fatta per profitto, fatta acquistare orgoglio, insomma, in quello che si fa, perché è una cosa che è mossa da altre motivazioni, è mossa da passione per quello che si fa. Perché se no nessuno te obbliga, nessuno te sta da... E quindi per forza delle cose, secondo me, alla fine viene fuori una cosa più bella di quella che potrebbe essere una cosa basata su una logica diversa, cioè. Probabilmente è un po' un ragionamento che non è assolutamente attuale, cioè, è un ragionamento, no, che vale da Beat Generation, nel senso che poi tutto sommato questo approccio e questo rifiuto poi del capitalismo, mettiamola così, così usando dei termini da Radio Onda Rossa, però appunto allo stesso tempo ti crea delle vie di fuga, e queste vie di fuga sono continuamente cooptate dal sistema, per cui è anche quello una forma di resistenza o comunque di conflitto, no, che crei. Certo, però alla fine secondo, cioè per come la vedo io, quello che poi viene sussunto dal punto di vista qualitativo sono le briciole. È il pezzo. Loro se prendono le briciole, le impacchettano e le rivendono come se fossero una cosa fantastica, però alla fine se vai a vedere... Cioè, diciamo sì, che è Bartalla sta modo di vedere, cioè, assolutamente perché... convinto. Che tra l'altro non è che non sia mai successo nella storia della musica indipendente o di gruppi che hanno attraversato spazi occupati. Non è che non è mai successo che mai sono diventati famosi e se sono venduti al mercato. Cioè, è un fenomeno pure abbastanza tipico, pure per quello che stai dicendo tu prima, cioè per il fatto che poi alla fine è un meccanismo un pochino che ti attanaglia, ti ingloba e alla fine cioè ti distrugge in qualche modo, o comunque distrugge il tuo essere standardizza vero, esatto, meno, ti omologa, esatto. Per cui è bello che invece il Principe di Ossiavalusa, nel suo piccolo ovviamente, perché non è, alla fine è un festival autogestito, prodotto, di un posto che è un buco di culo, insomma, che è Ostia, no? Però poi alla fine scopri che tutto sommato sono tutti gruppi che molto probabilmente per lo spirito, per il modo con cui hanno aderito, per il modo con cui, per l'affinità che noi abbiamo sentito con loro, molto probabilmente sarà difficile che facciano quel passo, insomma. Fino adesso, non so, forse a memoria. Se proprio lo fanno, devono fare un sacco di soldi, insomma. Non ci auguriamo. Infatti, voglio proprio vedere, sai, riscorrendo perché la quello lista... che è più triste è vedere invece, certo, capito, che entri dentro quel mercato delle persone che poi alla fine, sì, manco gli o pagano loro per farsi pubblicare. Cioè, è una cosa veramente. Comunque, no, poi quando ci rivedremo qua fra qualche anno e vedremo gli affluenti a Sanremo, ne riparliamo. Ah, non credo proprio, penso. Questo sarà veramente difficile. Allora, quindi abbiamo messo i piedi nel piatto per la seconda giornata a sto punto, dai. Allora sì, la seconda giornata parte dal pomeriggio e ci tengo a dire che a parte quelli che saranno venuti venerdì e che si saranno portati la tenda, perché c'è uno spazio campeggio free nel giardinone di ZK, a parte loro invito tutti quanti a venire presto dal pomeriggio, perché già dalle 5:30 c'è il primo, si riapre il festival il sabato, ed è bello, no, supportare la scena in tutto e per tutto, cioè non necessariamente fare i soliti pigri e mangiasse una cosa a Roma e poi mo basta che parto per Ostia, no, aspetta, passa a Piala del Mare. Poi c'è cioè se usci a 5 a ZK è un ottimo compromesso pure con i flussi di traffico del sabato, la gente. Assolutamente. Che invece te esci alle qua, no? 12-13 minuti e stai a Ostia, insomma. Ma se no butto lì prima al mare e poi Ostia Palusa, no? Urca, cioè, perfetto. Ci sta. Ma si può far bagno a Ostia? Di la verità. Dipende da come te ci approcci. Dipende da te, da come, quello che c'hai dentro te. Risparmi sull'olio solare, sì, diciamo. Dipende dal pH della pelle, cioè. non vuole. No, ma Ostia è bellissima. Ostia comunque è bella, noi la amiamo, cioè, fa schifo, visceralmente. Ma è bellissima. Come tutto il mondo, d'altronde. Io sono d'accordo con te, fa schifo ma è bellissimo. Vabbè, è veramente la definizione per Ostia. Beh, pure loro. Vabbè, diciamo che sto mondo in genere meriterebbe di morire marcendo nella sua schifezza. Però è bello perché ci stiamo dentro in qualche modo, insomma, dobbiamo sopravvivere e portare dentro sto mondo delle cose belle, sennò siamo rovinati. E questo era un momento di radio che volevo da anni con Secchetto e Ivan, che si scambiavano da, veramente grande nostalgia, grande momento di Radio Onda Rossa. E ora sentiamo i 99 posti filo da torce. Comunque no, si parte sabato rapidamente con All the Gay Stall, che sono un duo di Latina, basso e batteria, e noi ci piacciono molto i due basso e batteria, molto potenti. Suonano fortissimo, basso distorto. Tra l'altro il batterista degli All the Gay Stall è quello che è poi il batterista di Senza Benza, che sono un gruppo, insomma, di una certa batteria e basso. Però non lo sai, non ho trovato nulla. Non ho trovato nulla perché sono fondamentalmente inediti. Stanno registrando loro il loro primo EP. Nonché citazione Ostia Palusiana, batterista che suona nei Misanthropus. È tutto un giro. Batteria e basso mi fanno venire in mente i Morcobot. Hanno suonato Ostia Palusa? No, volevano troppi soldi. Volevano troppi soldi, Morcobot, mannaggia. Boh, se vuol dire tanto, era l'unico gruppo in 6 anni che alla fine non è venuto perché ha chiesto troppo. Cioè, ha chiesto un cachet completo, diciamo così. Va. Non è questione, infatti, di troppo o troppo poco. Perché Ostia Palusa è così, cioè i gruppi vengono a rimborso, perché poi alla fine la filosofia è che tutti tutti quanti si spendono come chi si spende perché magari sta al bar, chi si spende perché fa, prepara il posto, pulisce. Pure i gruppi contribuiscono, non è che noi li chiamiamo a farci una prestazione che noi gli paghiamo, a partecipare, certo. Quindi diciamo che è un modo di intendere l'iniziativa, che se non ti piace, se non ci stai dentro, pace, pace così. E devo dire che così, girando per i social che riguardano proprio le varie band che interverranno, credo tutte più o meno abbiano messo già da quando è uscita la loro adesione, quindi da questa primavera, già siamo orgogliosi di partecipare, cioè, insomma, tutti mi sembra che rispondano con seno centrale in qualche maniera, Ostiavalusa, rispetto, no, ai loro giri. Beh, poi alla fine so pure cioè, noi non lo so, noi non è che facciamo granché. Cioè, Ostiavalusa è un mostro paluso che vive di vita propria grazie all'apporto delle 100.000 persone, e alla fine ognuno ci mette delle cose, è difficile pure da controllare a volte. Vabbè, prende vita propria, vi sopravanza. Allora, dove eravamo arrivati? Sì, al primo gruppo delle 5:30, quindi Ole Gays Doll da Latina, bellissimo, okay. Veramente un duo inedito, appunto, diciamo prima, molto molto interessante. E poi abbiamo i Leviathan, una conoscenza tutta romana, e, insomma, beh, un gruppo che gira da parecchio per i nostri posti, Sludge. Sì, insomma, pure post-core sicuramente. Rescue, sì. Comunque un bel muro di suono, insomma, sì. per questo pomeriggio paluso. Ricordiamo pure che hanno suonato per la radio, sono stati anche invitati qui. Ma loro girano da parecchio e sono veramente, veramente carini, insomma, sotto tutti i punti di vista. E poi abbiamo gli Yang. Pure loro di Latina, o comunque Latina, Pomezia, Aprilia, zona da quelle parti, insomma. E un altro gruppo molto molto agropontino, sì. È un altro gruppo molto molto interessante che suona pure loro da parecchio. Tra l'altro con membri di Itsubo, che forse qualcuno conosce, sì, insomma, di Latina pure loro. Un pezzo di storia del grindcore, grind, perché fanno grind da quando il grind non c'era, penso, no, che è strano, sì, no? Sì. E gli Yang sono veramente molto molto belli, meno grind degli Itsubo, più tecnici, però anche loro con un muro di suono non indifferente. E dopodiché ci si ferma un attimino per una pausa cena, e anche questo della cucina è una cosa a cui, devo dire la verità, ci teniamo parecchio, perché insomma, come ogni anno, la cucina per Ostiavalusa è gestita in genere dai posti vicini, amici, nel senso che il bilancione occupato di Fiumicino, l'Ateneo Squat di Acilia o Biblidea, la libreria anarchica del Pigneto, eccetera, si autogestiscono i momenti del cibo. Spesso magari è l'occasione per fare un benefit per queste situazioni, che magari in quel chi più chi meno, insomma, ha bisogno di autofinanziarsi. E questo garantisce pure il fatto che poi, dato che ogni gruppo si autogestisce la cena, insomma, ci mette tutto l'impegno possibile, no? Per far sì che anche quell'aspetto, che è un po' determinante, insomma, perché poi senti tutti i gruppi che ti pare, ma se non mangi e bevi bene, forse. Anche perché dura tanto, non è che va a cavate con par d'orette, va al concerto e poi. No. Bisogna sostentarsi, sennò. È una maratona, insomma, bisogna. Ci vuole energia. Pause, sì. E poi si ricomincia l'Ipisis, di cui abbiamo parlato prima, Juggernaut, di cui abbiamo parlato prima, e poi un gruppo fuori, che sono i Centro Malessere, che è un gruppo molto molto interessante, quasi cantatoriale, diciamo, anche se sono un trio, poi sono due chitarre e basso. Stanno andando sotto la nostra voce, peraltro, lo vedi, a Ciccio. Ok, perfetto, perché non lo so, loro pure sono molto molto interessanti, tra l'altro... uno, da Trento, no? Uno, esatto, uno dei tre è anche il cantante dei Congegno. Che abbiamo già ospitato Ostiavalusa, e che sono un'altra band storica del panorama hardcore italiano, insomma, che è veramente veramente fighi, belli, bellissimi Congegno, io sono un grande estimatore. Purtroppo si sono sciolti, sì, però. Si sono sciolti, sì. Sì, però ci rimane lui, sì. Per questo è un'occasione, tra l'altro il nome è carino, no? Centro Malessa. C'è adesivo. Centro. E poi si prosegue con gli affluenti. E quindi da una pausa acustica, invece passiamo a siamo all'hardcore, hardcore anni 80, propriamente detto, quello dei tempi d'Ascoli Piceno. Guarda, ci è sempre piaciuto chiamare almeno un gruppo che un pochino rappresentasse un po' quello che è stata, no, l'esperienza musicale dell'hardcore italiano, perché comunque fa parte di noi in maniera forte, certo. Insomma, cioè l'anno scorso, boh, non mi ricordo che c'era. No, per evidenza ogni anno abbiamo cercato di chiamare i gruppi che in qualche modo c'è un filo, c'è stato il Mondo Topless, hanno suonato, c'è stati l'anno scorso c'erano i Plastination. I Plastination, bravo, esatto, Rodrino. Cioè pezzi un attimino anche per riportare un po' di storia, no? Pure dentro questo tirare le fila al discorso, capire da dove veniamo, ma non sapere ugualmente dove andremo. Beh, quello è meglio non saperlo. E ci siamo, no? E ancora, poi no, gli ultimi due gruppi, no. E finisce tutto. No, perché poi è lunga sabato, insomma. No, sono, così, sono tante. Sono nove. Sono nove gruppi il sabato. Sì. Quindi dopo gli affluenti abbiamo i Noi Banda, che è un altro gruppone tutto romano, insomma, batteria, trigger, basso suonato in orizzontale, quindi non come fosse una tastiera, suoni che vanno dal grind all'elettronica, perché c'è pure un'influenza elettronica, insomma un gruppo tutto da sentire, che tra l'altro troveremo questa volta sotto il palco. Vi do questa grande anticipazione direttamente dalla scheda tecnica, perché sono in due loro e sono in due, è tutto trigger, quindi riescono, insomma, riescono a fare in spazi limitati. E chiudono il festival sabato gli Scheletro, che menano forte, che so veramente il nostro piccolo grande orgoglio metal. Piccolo cuore metal. Allora, quindi abbiamo messo tante cose. Fantasma, aiutaci tu pure. Che cosa da dove vogliamo partire? Juggernaut l'abbiamo sentito, quindi ce li siamo giocati. Io partirei proprio con una ballata, Dai, quindi Centro Malessere, tanto ce l'avevamo già sotto, e li mandiamo subito in onda. Con birra appoggiata sul tavolo. Pino al mattino aveva già voglia di bere ed andava a chiedere di casa in casa un bicchiere che fosse di vino, di grappa o liquore. A Pino bastava un bicchiere offerto col cuore. Pino alla porta bussava e a chi lo ospitava augurava buona Pasqua e, per non sbagliare, anche buon Natale. La gente gli offriva il bicchiere, lui lo prendeva in un sorso, soltanto in un sorso beveva. Poi ringraziava il bicchiere, appoggiava e ripartiva verso un'altra casa, verso chi gli offriva un bicchiere di gioia e cinque minuti soltanto del proprio tempo. 5 minuti della propria vita. Pino era sempre in cammino, beveva e smaltiva, scendeva e saliva la strada in paese. Voleva soltanto del vino, non aveva altre pretese. Era insistente, Pino era un uomo cortese. Chi l'avrebbe mai detto che un giorno ne avrebbe pagato le spese? Pino un mattino, come sempre in cammino, suonò il campanello alla porta di un triste destino. Fece un sorriso al falso buon viso che quella mattina gli diede da bere. cose così. Pino riprese il cammino, ma la sera morì. Così senza guardare il veleno ingerì, la mano vigliacca decise così. Pino riprese il cammino per l'ultimo dì. Assassino si possa di notte svegliare davanti al fantasma di Pino che gli grida in faccia felice Natale. Brindiamo per Pino affinché il suo cammino possa continuare senza mai incontrare la mano vigliacca già pronta alla porta del a continuare senza mai incontrare la mano vigliacca già pronta per fargli del male. Thank you. Aspettavamo il trillino, per cui non l'hanno fatto e noi lo rimandiamo da capo, ma ci parliamo sopra. Eccoci qua, no, lo abbiamo mandato. Allora, ci siamo. Quindi abbiamo ascoltato Noi Band, abbiamo ascoltato prima Centro Malessere e invece che è sta roba? Niente, questo è lo spottino ufficiale di quest'anno, insomma, che è un pezzo che abbiamo registrato a ZK, dove c'è anche una piccola sala di registrazione. E niente, insomma, da appassionati di hip hop e di ragamuffin. Diretta a loro per venire a Stapialusa e ascoltare altre cose. È la chiara testimonianza del fatto che, insomma, Stapialusa è veramente trasversale e fuori da ogni scena. E comunque io. Anche contraddittoria alle volte, che, insomma, è una qualità importante. Quella... Penso che la contraddizione sia il motore della politica e della vita. E comunque. Cioè, il mio piccolo sogno è quello di dire Willa Silecta diretta da Radio Onda Rossa. Da paura. Campeggio libero, virato a prodotta, filo della casa, sama maieta, arrivo, ludo di soleta, radio del posto, c'è qui una voce che non ha mai parlato. Però sta nello spot? Ci sta. Niente, si vergogna. Vabbè, c'è ancora chi si vergogna di parlare da Radio Onda Rossa, regà. Ma come stiamo? Beh, di la verità, io un po' mi dovrei vergognare. E invece, dai, abbiamo Scimmia da Guerra, ne avevamo parlato prima. questa è la sperimentazione di cui vi parlavamo poc'anzi, quindi. Massimo Pupillo. In versione non zoo in questo caso. In parte sonorità sperimentali anche a Ostiapalusa per questo fine di giugno, inizio luglio. E torniamo qui dopo la breve interruzione. Leviathan, Black Summer. Vabbè, rientriamo, mezzanotte e 36, sempre sintonizzati e sintonizzate su Radio Onda Rossa. Andiamo a chiudere allora, io direi un po' riepiloghiamo i giorni, anche i contatti, per chi magari si è messo soltanto adesso all'ascolto e vuole un po' riepilogare il tutto, le giornate, dove trovarvi, i contatti, sì. Casella posta. Sì, sì, no, infatti. Il sito www.ossiapalusa.acidroject.org, e lì ci stanno tutte le informazioni, c'è il programma, insomma tutto quello che serve. Poi abbiamo pure una pagina su Facebook, che cercate Ossiapalusa, perché sinceramente non mi ricordo l'URL. C'è l'evento, no? C'è l'evento pure su Facebook. E poi volevo aggiungere giusto un'ultima cosa che non abbiamo menzionato prima, che però forse meriterebbe essere menzionata, è che a Ostiapalusa stiamo organizzando pure un'area videogames indipendenti, nella quale praticamente abbiamo invitato delle realtà, dei micro studi indie del sviluppo videogiochi romani, ma non solo, e che verranno e praticamente si autogestiranno un'area nella quale presenteranno i videogiochi che stanno a sviluppare e che insomma faranno provare la gente, poi danno parlare con le persone. Per noi è una cosa figa perché abbiamo più o meno recentemente incrociato questa... Beh, già l'anno scorso comunque c'era... Infatti dicevo più o meno recentemente perché insomma sono già un paio, due o tre anni che abbiamo intersecato questo ambiente degli sviluppatori dei videogiochi, nel quale abbiamo comunque riconosciuto un'energia e una cosa che... Un po' ci ricorda pure quella che è la scena della musica indipendente, quindi una cosa fatta con passione, con pochi mezzi, magari da piccole realtà che a malapena si sostentano, ma che comunque fanno delle cose con una cifra di passione e comunque portano pure questa del videogioco, che secondo noi è comunque un medium che ormai è diventato pervasivo e che comunque è diventata una cosa che ha una sua valenza culturale, benché spesso venga un po' sottovalutata oppure venga un po' relegata e lasciata in un limbo nel quale poi magari vengono a galla magari cose... le cose più superficiali, ma invece se vai a scavare, insomma, sotto c'è sta una bella scena, c'è sta una bella cultura, ci stanno delle persone fighe, e quindi pensavo che magari, ecco, era giusto menzionare pure questa cosa, perché è uno spazio secondo noi importante che si autogestisce all'interno di Ostiapalusa e che apporta un altro elemento secondo noi di ricchezza e di interesse a tutta la storia. Allora, direi di andare con gli ultimissimi pezzi, con Scheletro, che non abbiamo ascoltato, mi sembra, e li stavamo sacrificando adesso come tappeto musicale, come si dice nelle radioserie, la capra punk. La capra punk. Opinione, a me non me ne frega un cazzo. Scheletro su Radio Onda Rossa, insomma, due bei cazzotti in fascia, li potete ascoltare a Ostia Palusa prossimamente. Ultima traccia, Affluente, poi davvero con i saluti. Gli Affluente non hanno bisogno di presentazione, anche loro a Ostia Palusa. And fortunately, we have been able to raise our standard of living without sacrificing the spiritual side of life, which means so much to the American family. Mezzanotte 48 minuti primi, o 0048 minuti primi, quindi siamo entrati nel giorno più lungo dell'anno. Che abbiate paura, perché è così, 21 giugno. E non parte quello che dovrebbe partire sotto. Eccolo, è partito. Allora, siamo quindi alla conclusione. Noi intanto salutiamo tutte e tutte coloro che ci hanno ascoltato, in particolare i compagni e le compagne, i proletari, come si dice, tutti coloro che ci ascoltano in una condizione di limitata libertà personale, carcere, latitanza, clandestinità, quelli e quelle che sono costrette dalle mille decreti amministrativi che ti costringono a restare a casa, a restare nel comune, coercizioni varie di tutti i tipi, che aumentano giorno dopo giorno, perché questi hanno una grande fantasia su queste cose della repressione, sono veramente multiformi, sempre sul pezzo, geniali, guarda, sempre sul pezzo, sì. E il problema è che poi la paghiamo sulla nostra pelle questa roba qua. Quindi il saluto nostro più importante va a tutti e tutte queste persone. Invece le trasmissioni di Radio Rossa finiscono qui, si riprende dopo che vi darà compagnia la compagnia automatica Ario fino alle 8 di domattina con selezioni musicali, repliche, eccetera eccetera. Si riprende con la rassegna stampa, lettura delle prime pagine dei giornali, rassegna stampa cittadina, redazionale, il GR e via via. Tutta la giornata del giovedì che si conclude con i cuginetti di Apostasia, che pure penso che forse giovedì prossimo, non so, qualche telefonatina ve la faranno, insomma, almeno non so in quale forma, ma un altro contatto, sì, una qualche forma di contatto con Ostia Palusa ci sarà. E che dire, insomma, dai, rinnoviamo l'appuntamento a tutte e tutti, sempre 29-30 giugno, 1 luglio, ZK De Ostia, via Palmenonda 666, il numero da Bestia, Ci vediamo Ostia Palusa, due palchi, tre giorni di concerto, campeggio libero, venite con le tende, bella così. Ciao. Ciao. Confusa se venire a Ostia Palusa, non vorrei essere delusa, dammi almeno una scusa. Non aver paura, vieni stai sicura, non è poi così dura, un tantino di calura. Ci stanno tanti gruppi, tante cose, tanta gente, l'autogestione è una cifra divertente. Vieni a ZK, non ti devi preoccupare di portarti da mangiare. Da bere! Tutto il tuo prodotto, invia e bambi in onda, ad Ostia Palusa, tutto in buona onda. Tanta buona musica, ma lascia a casa il cane, portati la tenda, ma attento alle zanzare. Basta zero soldi, sta nella palude, Ostia Palusa non ti delude. Dal 29 giugno fino al 1 luglio, col bene che te voglio, non ti serve il portafoglio. dreams. I'll share.